in primo piano. Beh, il lodo Alfano è anche il titolo d'apertura di tutti i giornali. Vi risparmio la carrellata di titoli, ovviamente il più gettonato è La Consulta boccia lodo Alfano. Voglio fare una cosa diversa, vedere i titoli magari un po' più originali, prendendo i giornali, in questo caso quelli orientati più ideologicamente, di centrodestra e centrosinistra. Il Giornale: meno male che Silvio non molla, titola così, mentre Libero mette una foto di Silvio Berlusconi: Silvio reagisci, facci votare. Dall'altra parte invece il Manifesto prende la carta costituzionale, la Costituzione, in prima pagina col titolo Carta vince, scelta analoga dell'Unità, che pubblica la prima pagina dell'Unità del 23 dicembre 47, quando fu approvata la Costituzione, e sullo sfondo di un tricolore scrive: la legge è uguale per tutti. Cito anche il Fatto Quotidiano, che sotto il titolo Berlusconi torna imputato, la Corte non si è fatta intimidire, c'è una grande scritta a mo' di vignetta: lodo, solo che le due O di lodo sono unite e formano un paio di manette, tant'è. E allora, questo per quel che riguarda i titoli un po' diversi, per il resto appunto sono tutti La Consulta boccia il lodo Alfano, sostanzialmente, e c'è da scegliere anche da orientarsi tra un mare magnum di commenti, dichiarazioni, interviste. Vediamo di scegliere le più significative, a mio parere. Cominciamo proprio da Libero, con il titolo che ho detto, insomma: Silvio facci votare. Maurizio Belpietro, il direttore all'interno, scrive: il clima è fetido. Se non ci sarà una reazione potrebbe finire come Craxi, esiliato con ignominia per spianare la strada alla gioiosa macchina della guerra comunista. Non cito a caso Bettino: mi hanno colpito le centinaia di persone fuori da Palazzo Grazioli pronte a festeggiare la caduta del Cavaliere. Berlusconi non ha che una via: il voto, chiami raccolta la maggioranza degli italiani. Questa è la scelta di Libero. E tra l'altro, singolarmente, questa evocazione di Craxi la troviamo anche sul Riformista. Riformista, anche il giornale di Antonio Polito, fa una prima pagina davvero singolare. Il titolo è Berlusconi condannato, ma c'è una foto a tutta pagina di Silvio Berlusconi che però è a testa in giù, piedi all'aria e testa sotto. E all'interno, nell'articolo che parte in prima pagina di Fabrizio D'Esposito, il titolo è proprio questo: Celerini a Palazzo Grazioli, aria da Raphael nel bunker. Il Raphael era appunto l'hotel dove fu accolto Bettino Craxi con la contestazione. Via del plebiscito è blindata da Celerini in assetto di guerra, perché il premier atteso a Palazzo Venezia per visitare la mostra su Santi, potere e grazia. Coincidenze del destino: il cordone dei poliziotti è massiccio, un'immagine lugubre ma suggestiva, richiama un bunker bellico. Palazzo Grazioli circondato dai Celerini ricorda anche il Raphael di Bettino Craxi, come osserva un finiano di alto rango che si ritrova a passare da lì. La fine di un'epoca, allora la Prima Repubblica, oggi un colpo mortale alla Seconda. Questi, diciamo, i commenti, se volete, più estremi. Ovviamente trovate su tutti i giornali i resoconti di un Berlusconi che attacca Consulta di sinistra, e scontro anche con il Quirinale. Questa è pagina 3 del Corriere della Sera. Così Berlusconi furioso: mi sento tradito. Questo pagina 3 della Stampa, che raccoglie poi tutto lo sfogo fuori Palazzo Grazioli, l'attacco alla magistrati rossi organizzatissimi. E poi dice: abbiamo il 72% della stampa di sinistra, gli spettacoli di approfondimento della TV pubblica pagati coi soldi di tutti di sinistra, il capo dello Stato sapete voi da che parte sta. Insomma, questi sono i toni di quello che trovate, le reazioni sui giornali. Per andare a un commento un po' più pacato, bisogna andare per esempio in prima pagina del Sole 24 Ore, Stefano Folli, che avete sentito anche il nostro GR24. Stefano Folli scrive nel commento: Silvio Berlusconi, il giorno più lungo, ora è il momento dei nervi saldi. È chiaro che la sentenza della Corte Costituzionale sul lodo Alfano, nella sua sorprendente nettezza, può avere effetti destabilizzanti sulla politica e la legislatura. Ma chi ha davvero interesse a scendere lungo questo precipizio? In teoria non molti, e purtroppo ieri sera abbiamo avuto qualche segnale inquietante in tal senso, però, perché dice Folli, non molti, a meno che la situazione non sfugga di mano. L'improvviso attacco di Silvio Berlusconi al Presidente della Repubblica segnala il rischio del conflitto istituzionale. Se così fosse, le conseguenze sarebbero molto gravi, tanto più che il Quirinale svolge da più di un anno un'opera di moderazione assai preziosa che gli ha tirato non a caso gli strali di Di Pietro, ma che è più volte tornata utile al governo. E poi Folli comunque più avanti dice: è evidente che abbiamo di fronte Berlusconi un uomo ferito, il Presidente del Consiglio che ieri sera, avendo ricevuto la solidarietà dei suoi ministri, garantiva l'intenzione di andare avanti, sa bene che la sua condizione è cambiata. Questo è anche il commento che troviamo in prima pagina sul Foglio. La firma è dell'Elefantino, quindi di Giuliano Ferrara. Lodo Augelli far festa, questo è il titolo. Berlusconi torna nelle aule giudiziarie, ne vedremo delle belle. Il CAV ha il fuoco nella pancia, non è tipo da bel gesto, scrive Ferrara. Si terrà lontano da avventurose e inutili elezioni anticipate, non farà nulla di temibile, tantomeno di dispotico, come ha insinuato un ansioso e puerile Franceschini. Il problema non è Berlusconi, ma è di sistema. E poi analizza più avanti Ferrara: ancora una volta è una pronuncia togata a stabilire il passo della politica, l'agenda della vita pubblica italiana. E dunque, più avanti, la proposta, oltre a seguire con molta cura i suoi processi, a pararsi da eventuali nuove sorprese, il Cavaliere dovrebbe ora ingranare la marcia delle riforme. Ed è questa parola, riforme, che trovate anche nell'intervista a Gaetano Pecorella. A Gaetano Pecorella, avvocato, parlamentare, uno degli avvocati che si è pronunciato in consulta, vi anticipo che alle 8.30 sarà anche ai nostri microfoni, insieme al leader dell'Italia dei Valori Di Pietro, peraltro. E Gaetano Pecorella dice: è l'ora delle riforme radicali, così non si va avanti. Commenta sulla Corte Costituzionale in questa intervista rilasciata a Paolo Colonnello della Stampa. Sulla Corte Costituzionale, insomma, che una parte sia eletta dalla magistratura che da anni fa la guerra a Berlusconi, che 5 membri siano nominati dai Presidenti della Repubblica che tutti sappiamo da che parte stanno, e che 3 membri siano espressi dalla maggioranza, 2/3 dell'opposizione, e 2 dell'opposizione, direi che fa ben capire che qualcosa non va. Questo dunque la Corte Costituzionale. Poi dice: ora è il momento di fare riforme radicali. Vendetta contro i magistrati, chiede Paolo Colonnello. Non è possibile che un paese sia sotto pressione per i processi a carico dei politici, attivati sempre in momenti opportuni. E dice ancora Pecorella: non è più solo un problema del PDL, ma è la politica nel suo complesso che non può più governare. Mastella mandato a casa da un'inchiesta svanita nel nulla, Castelli raggiunto da una quantità di procedimenti di cui si è smarrito il senso, e poi D'Alema, Fassino, tutti attacchi finiti nell'oblio e che rendono impossibile governare. Riguardo alle interviste, commenti, ce n'è anche una a Dario Franceschini, segretario del PD. Su Repubblica, pagina 7, a Goffredo De Marchis dice: ci aspettano giorni difficili, questo è sicuro. Berlusconi non si rassegnerà facilmente al giudizio della Corte Costituzionale. Per me, dice Franceschini, il rischio più forte è l'assuefazione, l'idea che tutto sia più o meno lecito, inesorabile e scontato. 15 anni fa sarebbe stato possibile, immaginabile, vedere un Presidente del Consiglio che insulta la Consulta e il Quirinale per una sentenza del supremo organo di garanzia che lo riguarda? La risposta è no. E poi la stoccata a Di Pietro, alleato, ma insomma sempre con frizioni. Lui continua a gridare dimissioni, come se gridando le possa ottenere. Poi fa una scelta giuridicamente sbagliata, politicamente suicida, prendendosela con Napolitano perché ha firmato il lodo. Anche in una giornata come questa Di Pietro ha commesso un grave errore, dice Franceschini. Ci sono poi resoconti, per chiudere la vicenda Alfano, prima del traffico, sui processi che ripartono. Il Giornale per esempio ne parla, ma ne parlano tutti i giornali, a dir la verità è pieno di pagine oggi dedicate ovviamente al lodo Alfano. Ecco come i giudici riprenderanno l'attacco al Premier, i processi che ripartono, quelli sui diritti TV Mediaset e la corruzione Mills, i procedimenti in fase preliminare MediaTrade e il caso Senatori, indagato per istigazione alla corruzione nell'inchiesta in cui si ipotizza la compravendita dei 2 senatori del centro-sinistra, insomma le procure che sarebbero già pronte. E il ministro Alfano, questo scrive Libero, il pupillo Alfano pronto a dimettersi. È un'indiscrezione, persone vicine al ministro assicurano che il fedele Angelino sarebbe stato pronto a dimettersi. La voce rimbalzata con insistenza in serata, ma che il ministro vada in fondo è tutto da vedere. Questo scrive Libero. Archiviamo la vicenda Lodo Alfano, ma potete davvero approfondire tutto, e ci occupiamo delle altre notizie dopo il traffico. in primo piano. Trovate anche tanto sui giornali la presentazione ieri di Italia Futura, che è la nuova fondazione lanciata dal presidente della Fiat Luca Cordero di Montezemolo. Idee per sbloccare il paese, niente complotto, così ne parla Repubblica. C'è anche un articolo a partire in prima pagina di Alberto Statera. Montezemolo disse: ma quale complotto? La scuola machiavellica che con Vilfredo Pareto formulò la teoria dell'elite non abita a Palazzo Colonna, scrive Statera, dove tra fughe di saloni sconfinati Luca Cordero di Montezemolo ha presentato la sua fondazione Italia Futura. Non è qui e oggi, mentre i giudici costituzionali bocciano Lodo Alfano, che si consuma il golpe per rovesciare Berlusconi, legittimamente eletto dal popolo, per sostituirlo con un governo del presidente, un esecutivo tecnocratico o una grande coalizione con rimescolamento centrista. Di viscidoni e di poteri forti di merda, come li definisce Brunetta, qui oggi non c'è traccia, nonostante lo sfavillio di centinaia e centinaia di abiti gessati, accorsi ad abbeverarsi a Luca, l'imprenditore di successo, l'icona mediatica che potrebbe incarnare il Berlusconi buono. È lo stesso Montezemolo, poi scrive Statera, a dire: ma che elite scatenate, poteri forti infoiati, inutile discutere di elite di leoni e elite di volpi, l'elitario salotto buono non esiste più. Tra l'altro, cosa fa sempre il Foglio, ve lo voglio segnalare, pubblica sotto il titolo Complotto a chi? Tutto l'intervento di Luca Cordero di Montezemolo, scrivendo così: Montezemolo lancia il suo non partito puntando sull'innovazione e non sfiduciando il governo. Tutto l'intervento, il discorso di Montezemolo ieri all'apertura di Italia Futura. Su questo tema c'è una gustosa, spassosa intervista, perché insomma sapete che il personaggio regala sempre risposte molto ficcanti, al ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, intervistato da Luca Telese per Il Fatto, e insomma Brunetta ribadisce in questa lunga intervista di una pagina: vi spiego perché c'è un golpe, e dice: la sinistra, famosa sinistra per male, sono le terrazze, i radical chic, quelli che abbiamo una banca, quelli che stanno sulle scatole anche a voi del Fatto, dice Brunetta. Che poi sul tema Montezemolo, alla domanda come sono i vostri rapporti: buonissimi, grazie. Come lei forse sa, mi ha fatto i complimenti dopo il discorso di Cortina. Gli faccio tutti i miei auguri a lui e ai suoi figli. Anche in politica? Senta, Montezemolo ha tutto il diritto di candidarsi, dice Brunetta, ma in questa legislatura il mandato è andato a Berlusconi, chiaro? E così liquida la questione. Per quel che riguarda le altre notizie, trovate tanto risalto alla vicenda che ha coinvolto l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Assolto per la Diaz, così troviamo sul Sole 24 Ore, sentenza per non aver commesso il fatto, anche vari commenti, vi si dedica molto il Secolo XIX, ovviamente quotidiano prevalentemente a distribuzione Liguria e Genova, con anche commenti abbastanza critici. 8 anni di indagini in salita, in fumo i processi ai poliziotti con molte ombre. La notizia che trovate con risalto interessante è quella del ministro dell'istruzione Gelmini: basta sprechi a scuola, i bidelli tornino a pulire. Parlando alla commissione al question time alla Camera, il ministro Gelmini ha detto: sono contrario al fatto che i bidelli non puliscano le scuole e si appaltino le pulizie all'esterno. È uno spreco di risorse pubbliche. I collaboratori scolastici sono circa 200.000, tornino a fare anche il lavoro che devono fare, vale a dire pulire le aule. E poi trovate, per divertirvi un po', tutta la vicenda che ha coinvolto Antonello Venditti, il cantautore romano, che è successo? Ha fatto un concerto quest'estate, lo avete sentito anche ieri alla Zanzara, se ne è occupato, ha fatto un concerto quest'estate in Sicilia, e in questo concerto ha detto qualcosa sulla Calabria che uno spettatore ha messo su YouTube, Galeotto fu YouTube, questo video del comizio di Antonello, e Antonello Venditti ha detto: perché Dio ha fatto la Calabria? Secondo il giornale, parole sprezzanti del cantautore romano durante il concerto in Sicilia, con i DJ locali delle radio calabresi che dicono: finché non chiede la scusa non metteremo più i suoi dischi. Perché Dio ha fatto la Calabria? Non c'è quasi niente in quella regione. Speriamo che si faccia il ponte, almeno così la Calabria esisterà. Ovviamente Antonello Venditti si è difeso dicendo sono state interpretate male le mie parole, però insomma il video è lì su YouTube da vedere. Oggi il Riformista chiede a Tommaso Labate, conterraneo di Tommaso Campanella e quindi calabrese, di rispondere ad Antonello Venditti. La Calabria spiegata Venditti a partire dal triangolo rettangolo, scrive Tommaso Labate. Se il creatore avesse potuto ascoltarne la preghiera con qualche migliaio di anni d'anticipo e non l'avesse creata, la Calabria, a quest'ora il pianista di Piano Bar e tutti gli altri 33 reduci della terza E del Giulio Cesare sarebbero rimasti lì a ricordare quando la regina d'Inghilterra era Pelé. Di fronte a un triangolo rettangolo, però, l'Antonello e i suoi compagni avrebbero fatto scena muta, osservandolo, il triangolo rettangolo, con la stessa sorpresa del Don Abbondio di fronte a una citazione su Carnea della Cirene. Chi era costui? L'avrebbero prima visto, poi guardato, ammirato, rimirato, senza sapere da che lato prenderlo, il triangolo rettangolo. Che nel triangolo in questione la somma dei quadrati costruiti sui cateti equivale al quadrato costruito sull'ipotenusa, è cosa nota, in fondo, grazie all'esistenza stessa della Calabria. Fu proprio in Calabria, Magna Grecia, dove Pitagora da Samo si trasferì per fondare la sua scuola. E ancora, scrive l'abate, per quanto possa sembrare paradossale, senza la Calabria le fondamenta del diritto non sarebbero quelle che conosciamo. Zaleuco, uno dei primi legislatori del creato, era di Locri. Anche in epoca contemporanea la Calabria vanta il rito del caffè servito con bicchiere d'acqua, senza neanche chiederlo. Mangiate da Padre Eterno a 15 euro, una coscienza civica e un senso d'appartenenza alla terra sviluppate ben oltre la media nazionale, le melanzane ripiene, il chilometro più bello d'Italia, così il pescarese D'Annunzio definì il lungomare di Reggio, il bergamotto, la peggior razza di juventini presente sul suolo nazionale, le processioni delle Madonne sul mare, i bar che ancora servono la China Martini, lo Stravecchio, l'Amaro del Capo. Se non ci fosse la Calabria non ci sarebbe l'Italia, che si chiama così per via degli Itali, che erano gli antichi abitanti della regione. Hanno origini calabresi il capo della CIA, l'ex moglie del tennista Borg, l'attuale di Flavio Briatore, quelli che d'estate hanno picchiato Fabrizio Corona, le attempate tette di Sabina Stilo, le giovani gambe di Miss Italia 2009. E in Calabria, come scrisse Rino Gaetano 30 anni fa, si può camminare con quel contadino che forse fa la sua stessa strada, parlare dell'uva e del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa. Beh, davvero bella la risposta di Tommaso Labate ad Antonello Venditti, che ha attaccato la Calabria. Così chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Voglio ricordare il sito, il sondaggio Lodo Alfano, la sentenza della Corte l'ha bocciato, che ne pensate, siete d'accordo o no? Votate sul sole24ore.com, è vero, ci segnalate che il sito della radio invece è inaccessibile, ci sono dei problemi tecnici, vedremo di ripristinarlo al più presto. Votate allora sul sole24ore.com e ne parliamo poi alle 8.30.